Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Tarak Ben Ammar, tunisino, 65 anni, sposato con 4 figli. Vive tra Tunisi, Parigi, Roma e Milano. Papà ambasciatore, liceo dai preti a Roma sulla via Aurelia. Cultura cosmopolita, uomo di cinema, di finanza e di televisione. Porta il principe Al-Walid in Mediaset e le parabole di Murdoch e Sky sui tetti italiani. E nei consigli di amministrazione di Mediobanca e di Telecom. Amico di Berlusconi, sogna con il suo socio, il cristiano copto su Iris, di costruire una grande televisione che copra il Mediterraneo. Musulmano, è un uomo ponte tra la cultura cristiana e l'Islam, nella finanza e nei media. Oggi con la sua TV ha combattuto, rischiato e vinto per una nuova Tunisia. Il dottor Ben Ammar, dopo il ballottaggio del 21 dicembre, una nuova Tunisia all'orizzonte? È già una nuova Tunisia democratica, l'unico paese arabo dove c'è la democrazia. Ecco, ma per lei andavano bene sia il laico Esseb che il musulmano Marzuki? Ma anche qui l'Occidente o i media pensano che è una guerra tra laicità e Islam. Sono tutti e due musulmani, dunque ognuno ha l'interpretazione come da voi. Noi cristiani hanno ognuno di loro una posizione una diversa. Una corrente democristiana, insomma. È una corrente, due correnti democristiane. Due correnti musulmane, diciamo. Va bene. Dottor Ben Ammar, ecco, la trasformazione che inizia in Tunisia e coinvolge 200 milioni di persone nel Nord Africa non è più arrestabile? Assolutamente no, una volta che hanno assaggiato la democrazia in Tunisia, perché volete che la Libia, l'Algeria, il Marocco e l'Egitto non vuol fare come noi? Ma una trasformazione verso che cosa in realtà? Eh beh, verso quello che anche voi volevate dopo la guerra: libertà, dignità, giustizia, lavoro e molto meno corruzione, anche da voi, no? Ma sì, mi sembra che in questi giorni si vede l'esito della corruzione. Dottor Ben Ammar, ecco, da cosa dipenderà questa evoluzione? Prima dall'educazione, che è la base della civiltà per i giovani e per le scuole e per le università. Poi secondo, da investimenti che i stranieri o anche che i paesi arabi stessi creeranno lavoro nelle loro terre con il petrolio che c'è nel mondo arabo. Com'è possibile che c'è tutta questa miseria nelle nostre terre? Quindi educazione, investimenti, ruolo della donna anche? Ma l'educazione vuol dire libertà della donna, o vuol dire libertà totale, come noi in Tunisia, la donna e gli uomini hanno i stessi diritti, e questo è il presente, non l'avvenire. Così sarà, spero, per gli altri paesi. Ecco, però le primavere arabe finora qui in Occidente sono state viste un po' come un'illusione per chi ci ha creduto. Ma anche là è il tipico, diciamo, simbolo romantico dell'Occidente, che voleva chiamare primavera questa evoluzione e rivoluzione. Non era una primavera, era un popolo che si è svegliato contro la dittatura, manca di dignità, lavoro, miseria e giustizia, e voi l'avete chiamata primavera e poi è diventata nella vostra testa inverno. Non è mai stata una primavera né un inverno. Ma scusi, ma Islam e democrazia secondo lei sono compatibili? Ma perché voi in Italia la cristianità non è compatibile con la democrazia, e in Israele la religione ebraica non è? Io ovviamente penso di sì, e la Tunisia è la dimostrazione che lo è. Quindi in Europa chi teme che in Nord Africa stia arrivando un inverno islamico? E ancora qua una definizione, voi avete definito il romanticismo della primavera, noi è un'evoluzione per costruire una democrazia, l'abbiamo fatto in Tunisia, se è fattibile da noi è fattibile altrove. Ovviamente libertà della donna, educazione, rispetto delle religioni, apertura sull'Occidente e non violenza. Ecco, due settimane fa il Papa è andato in Turchia, ha incontrato il premier Erdogan, però con lui non è andata bene, è stato un rapporto freddo, duro, c'è un nuovo gelo tra cristianesimo e Islam? No, non c'è un gelo, è un messaggio del Papa, come tra l'altro nei paesi moderati islamici, musulmani, hanno detto a Erdogan: tu hai tradito la visione della compatibilità di Islam e democrazia. La Turchia era per noi un esempio, un modello. Poi ho visto che, noi abbiamo visto, che è passata a finanziare i movimenti fondamentalista in Egitto, in Libia, in Siria. E dunque credo, e io condivido il messaggio del Papa, di dire a Erdogan, che voleva ridiventare il capo dell'Islam, come era l'impero ottomano. Attenzione, non va in quella direzione, ci vuole pace tra le religioni. Senta, il Papa però ha chiesto reciprocità nella costruzione dei luoghi di culto, che adesso non c'è. È importante che capiti o no? Assolutamente, in Tunisia abbiamo la chiesa, no? E no, l'Islam, cos'è l'Islam? È chi crede in Dio e la gente del libro. La gente del libro sono i cristiani, gli ebrei e i musulmani. Ma c'è un Islam quindi che è per questa reciprocità, sì. Non c'è un'altra Islam, sono gli uomini che deformano le religioni. Ma voi non avete avuto l'Inquisizione, certo. Non avete avuto nel Medioevo la guerra delle religioni. Noi stiamo vivendo quello che voi avete vissuto nel Medioevo. Ma lei ha detto che l'Islam è una religione meravigliosa ma incompresa. Cioè? Incompresa prima dai musulmani stessi, cioè? Che spessi non la conoscono per ignoranza, per manipolazione politica e vanno verso la violenza. Quello non è l'Islam. Ripeto, anche voi avete avuto l'ingiustizia al nome di Dio, le crociate, l'inquisizione in Spagna, in Italia, le gente bruciate in spiazze che erano delle streghe, Savaranona a Firenze. Dunque, noi dobbiamo noi fare la nostra riforma dell'Islam, insegnando ai giovani, cioè interpretandolo, cos'è. Sì. Per quello che è. Ecco, dottor Ben Ammar, non è però islamica la matrice profonda del califfato dell'ISIS? Loro non sono dei musulmani, chi ammazza non è un credente, dunque questi sono delle bande armate finanziate da non so chi. Ricordatevi il film Mad Max? Sono delle tribù Mad Max con petrolio, soldi e armi che si combattono, fanno finta che sono al nome della religione, ma nessuno li ha mai data questo potere. Beh, però qualcuno li finanzia. Di sicuro, io ho letto ieri un'intervista di Assad in Siria. Lui dichiara che il Qatar e la Turchia sono dietro questa destabilizzazione del Medio Oriente. Io non ho la prova, ma sicuramente tutti questi miliardi di dollari, più i soldi, più l'armamento, chi li vende le armi? Se domani l'Occidente smette di vendere, non possono fare la guerra. Senta, l'Occidente anglosassone, guidato da Obama, però sembra incapace di reagire rispetto alla situazione nel Medio Oriente e nel Nord Africa. Perché? Beh, io credo che l'Occidente anglosassone, da quando, dopo la guerra, non ha mai capito il Medio Oriente. Perché? Perché non fanno parte del Mediterraneo, vedono geopoliticamente i loro interessi, il petrolio, l'armamento, la finanza, non guardano le aspirazioni dei popoli, si sbagliano sempre su cosa i popoli là vogliono per loro. Adesso è venuto fuori anche tutta la storia del la CIA, eccetera. No, cosa la sentiamo? CIA. Che la tortura della CIA, ammesso anche ieri da Cameron, sì, che era in Turchia. Ho sentito che questi rivoluzionari o violenti califati erano in galera, in prigione, in Iraq, sotto gli americani, uscendo da là o da Guantanamo, la loro violenza, la violenza porta violenza, no? L'uomo si sa questo, le guerre devono essere due. La reazione a questa occupazione americana e ingiustizia hanno fatto che sono entrati anche loro nella violenza. Non la giustifico, ma cerco di capire. Senta, ma gli interessi dell'Europa mediterranea invece sembrano essere molto distanti da quelli anglo-americani, è così? Ma senza dubbio, noi viviamo nel Mediterraneo, loro sono a 6 ore di volo l'America, perché l'Inghilterra segue l'America, dunque di fatto non è, diciamo, la politica americana. E il discorso di Obama al Cairo, cosa ne è successo? Niente. Una delusione totale. Obama ha fallito nel Medio Oriente. Completamente. Senta, ma vista dal suo punto di vista l'Europa, allora cosa deve fare che non fa? Allora, questa è la domanda fondamentale. Prima avevo sentito che l'ONU ha detto che è l'anno più violento il Mediterraneo, 3.500 persone sono morte. Già è una cosa insopportabile che dei giovani e delle donne e bambini vogliono fuggire la loro terra. Per non fuggire la terra va creato ricchezza e democrazia in quella terra, no? Così i nostri giovani non vengono qua, perché qui c'è una crisi economica, i vostri giovani già non trovano lavoro, se in più devi assorbire, anche se io penso che l'immigrazione non è un pericolo ma una ricchezza per l'Europa, lo dice l'ONU, ma nel momento di crisi aiutando quei paesi a sviluppare le loro economie, investendo in quelle terre, evita che i figli di quelle terre vengano qua. Restano a casa e diventa una cosa vincente per loro e vincente per l'Europa. Senta, ma lei ha detto che l'Islam e democrazia, l'ha detto prima, sono compatibili, però in Egitto chi ha vinto le elezioni è in galera e comanda chi ha fatto un golpe. Beh, allora attenzione, il golpe l'ha fatto anche Morsi, perché si parla del presidente Morsi, ha vinto le elezioni ma ha tradito il suo popolo, e 30 milioni di egiziani, vorrei ricordare, hanno firmato, che era un referendum, e hanno portato 30 milioni di firme, più di quelli che hanno votato, che erano 17 milioni, a Sisi, che era il generale nominato da Morsi, che è in galera, e dicendo questo ha fatto un colpo di Stato, non Sisi, Morsi, tradendo il paese. Un colpo d'estato con le elezioni, insomma. Sì, allora, sì, cosa ha fatto? È vero. Essendo l'esercito, gli ha detto a Morsi: o tu rispetti un governo di grande coalizione, o io ti levo. E senta, così è stato. Però Sisi assolve Mubarak. No, è la giustizia che ha assolto Mubarak, è come si dire Berlusconi comandava i giudici o Renzi comanda i giudici. No. Perché i vostri giudici sono, come dite voi, autonomi, indipendenti, e in Egitto no? Sarebbe un... Senta, è Sisi che si dichiara tutore di Israele contro il terrorismo palestinese? Sembra un mondo rovesciato. No, non è incompatibile. Tutti noi siamo contro la violenza e il terrorismo, che siano i paesi occidentali, i paesi arabi, moderati o Israele. Sisi è contro il terrorismo, in terra sua e in terra altri. Senta, ma l'Egitto resta un modello per il Nord Africa? Non c'è mondo arabo senza l'Egitto. E a proposito, lui è contro il terrorismo, ma è anche contro il governo Netanyahu, sulle occupazioni della terra dei palestinesi e sul fatto che ci vuole uno Stato palestinese. Lo vogliono tutto il mondo. Vedremo con l'elezione di marzo cosa farà Israele. Ecco, senta, dottor Ben Ammar, lei a gennaio ha detto che l'ingresso di Mediaset nel mercato delle Pay è stata una mossa geniale. Perché? Ma perché un gruppo di media oggi non può vivere soltanto di un ricavo, deve essere nella Pay, nella Free, in internet, in tutti i ricavi possibili, in tutte le piattaforme, tutte possibili. Le piattaforme digitali, ovviamente. Ecco, quindi si arriverà a un accordo tra player globali sulla Pay in Italia? Io lo auspico, lo auguro, anche perché è l'unico paese dove ci sono due Pay e non c'è spazio per due, dunque qualcosa dovrà succedere. Quindi diciamo Berlusconi e Murdoch, che gli piacciono, fanno l'accordo? Tanto si amano e si rispettano. Io farei di tutto se è possibile che ci sia una piattaforma e non due. Insomma, pensa che capiterà? Penso di sì. Lei è nel CDA anche di Telecom, nel consiglio di amministrazione. Tra Telecom e Mediaset anche lì ci sono prospettive di accordo? Guarda, Telecom, come tutte le grandi compagnie di telefonia, Spagna, America, hanno bisogno del quadruple play, devono fornire telefonia fissa, telefonia mobile, internet e televisione. Dunque i contenuti saranno necessari. Telecom ha già un accordo con Sky, ne farà uno con Mediaset. Vabbè, quindi si realizza il sogno di Fedele Confalonieri, che ha sempre sognato questa cosa. Fedele Confalonieri ha sempre creduto che i contenuti vanno distribuiti su tutti i tipi di piattaforma, compreso la telefonia. Ma quando vi siete incontrati quest'estate con i vertici di Telecom sulla barca di Bolloré, avete parlato dell'accordo fra Telecom e Mediaset? No, non abbiamo parlato dell'accordo, perché non era quello l'argomento. L'argomento era Vivendi, Canal Plus, se sì o no faceva l'accordo con GVT in Brasile con Telecom. E lì come va a finire? Abbiamo parlato che le telefonie hanno bisogno di contenuti e siccome Vivendi Canal Plus ha contenuti, abbiamo parlato della prospettiva di cosa si potrebbe fare. Siccome Vivendi diventerà azionista a febbraio di Telecom Italia con l'8,5%, abbiamo pensato il domani cosa sarà. E Murdoch c'ha 83 anni e ha investito 80 miliardi di dollari per comprare Time Magazine, Warner. Perché? Perché lui sa che il petrolio di domani, con la piattaforma digitale e la tecnologia, sono i contenuti, i film, le serie, lo sport. Lui dice preferisce, lui vuole lottare la contro fiction. La fiction, vuole lottare contro Google, contro Twitter, contro Facebook, contro tutta questa gente, dicendo: chi vi dà il contenuto? Io. Beh, io voglio essere il più grande produttore di contenuti, Fox e Warner. Questa è la ragione. Senta, dottor Brambale, in Europa ci sono 170 operatori di telecomunicazione, in USA e in Cina ce ne sono 4, può durare così? Ma non possiamo paragonare, perché l'Europa sono 30 e qualcosa paesi, la Cina è un paese e l'America. Certamente consolidamento ci sarà anche in Europa. E quindi di fronte a un'ipotesi di accorpamento, la Telecom sarà cacciatore o preda? Guarda, tutte le aziende possono essere preda. Certo. Però io vedo più una Telecom cacciatore, perché non vedo nessuno attaccare Telecom con la rete, e che comunque politicamente il governo e anche... Vabbè, però Telecom diciamo... Si può pensare anche scorporata dalla rete, perché è solo in Italia che l'operatore è privato con la rete che è privata, in Francia no, in Germania no, in Inghilterra no. Sì, ma ricordiamo, Telecom era pubblica, sì, è stata privatizzata da un governo, non è che poi adesso dici agli investitori che hanno messo decine e decine di miliardi, scusate, ci siamo sbagliati, la scorporiamo. Io non ci credo, e sarebbe un danno anche per... E la libertà. Però saremo l'unico paese in Europa. E che male c'è? Dal momento che il Telecom è in Italia, non è che gli azionisti portano la rete fuori con bagaglio, sta qua sul territorio. Basta che quindi le regole. Secondo lei non si scorporerà mai la rete? Non ci credo. No. Senta, ma oggi gli investitori internazionali che cosa temono di più in Italia, visto cosa sta capitando in Grecia? Lentezza della giustizia. Il diritto per un imprenditore che c'ha un contratto che non può ottenere giustizia anche quando chi non l'ha pagato, riforme della burocrazia, pubblica amministrazione e ovviamente riforma del lavoro che avete iniziato con il Jobs Act, dunque questo è quello che bene. Guardiamo. Ecco. Quindi Renzi, le sue riforme sui mercati internazionali sono credibili? Sono auspicabili e cominciano a essere credibili. Si vede una primavera araba in Italia, sì, siccome voi amate la parola, è una primavera italiana in Europa, diciamo. Senta, e se dovesse fallire Renzi, c'è la troica dopo come in Grecia, che però è fallita in Grecia. Intanto credo, perché avete già iniziato la vostra rivoluzione, che non fallirà l'Italia. Guardiamo che malgrado che Moody's ha declassato l'Italia, non è stato un tonfo della borsa. La cosa di Grecia oggi, la borsa riparte. No, io non credo minimamente. Ovviamente penso che Renzi deve lottare contro questa dominanza europea che ormai è esagerata. Questa Europa guida tedesca con la Merkel sempre col ditino alzato non può funzionare. No. Credo che Renzi è un po' il leader con intelligenza di questa lotta contro il dito alzato della Merkel. Lei è amico di Berlusconi, per quello che ne sa, il patto del Nazareno reggerà? Assolutamente, penso che reggerà e deve reggere. Senta, pensa che la Corte Europea assolverà Berlusconi? Se c'è una giustizia alla Corte Europea, credo di sì, perché conosco il dossier e veramente su questa cosa lui è totalmente innocente. Senta, dottor Bernammar, le faccio un'ultima domanda. Lo scorso anno qui mi aveva detto che se ci fosse stata un'ipotesi di privatizzazione della RAI, lei era interessato. Adesso il processo è iniziato con Rai Way. Il suo interesse è aumentato, diminuito? Intanto Rai Way è un successo che dimostra che la RAI è un'azienda ricca. Due, la mia priorità che ho fatto è portare democrazia tra la mia televisione con informazione, dando al popolo civile nordafricano un megafono di libertà televisiva. Dunque, quella è la mia priorità. Quella è la sua... Se ovviamente domani la RAI si apre, a quale non credo, però si apre ai privati, siccome sono nel Mediterraneo, se la aprono a tutti, anche io farò parte, se posso, nel mio piccolo, di quindi costruire... Quindi se continua il processo di apertura, lei è interessato alla privatizzazione della RAI? Sì, ma Minoli, lei ha detto prima che non è normale che la rete di Telecom sia privata. Sì. Allora faccio la domanda a lei, che è giornalista. La RAI deve essere pubblica o privata? Ah, secondo me è pubblica. E allora è inutile propormi... Però io non sono il governo. No, ma allora è inutile propormi la privatizzazione, perché non ci sarà. Ha già cominciato con Rai Way e quindi non si sa mai. Okay. Senta, le faccio un'ultimissima domanda. Nelle società globalizzate, multipiattaforme di cui abbiamo parlato, hanno ancora senso, allora la mettiamo così, i servizi pubblici? Sì, assolutamente, il servizio pubblico deve essere l'ambasciatore della terra, per esempio. Delle radici. La RAI... Sì. non deve fare troppo TV commerciale, e non lo dico perché sono amico di Mediaset di Berlusconi, ma il Made in Italy, vendere alla vostra cultura, qual è la bellezza dell'Italia? Certe cose che ne sono altro. Il ruolo della RAI, come tra l'altro la TV pubblica inglese, la BBC o France 2 in Francia, non sono orientati soltanto ai spot. Più piccole ma più contenuti. Più contenuti che vendono cosa è l'Italia, le radici, perché all'estero si vede tutto su internet. Dunque la RAI diventa l'ambasciatore del Made in Italy, che è la vostra ricchezza. Scream di Michael Jackson, il re del pop che Tarak Ben Ammar ha conosciuto e l'ha conosciuto molto bene, è stato il suo manager. Ci dici chi era, com'era? Era facile da gestire? No, era difficile, ma era un angelo, era un bambino, di fatto, emotivamente e non intellettualmente, era un genio, ma emotivamente, non avendo avuto infanzia, quando ho capito che aveva l'età del mio figlio, all'epoca aveva 11 anni, l'ho visto giocare con mio figlio. Che sia ben chiaro, tutte accuse sulla cosa sessuale sono menzogne. Tutte menzogne. Io ho vissuto a casa sua, a Neverland, lui ha vissuto da me a Parigi, la sua figlia Paris è nata perché era con me a Parigi. Tutte menzogne di un bambino stramiliardario, circondato da ladri, banditi, mafiosi. Io ho dovuto kidnapparlo, levarlo dall'America per salvarlo. Erano gli anni più felici, poi non potevo più gestirlo perché avevo Murdoch, Berlusconi, Al-Walid, i miei affari. Io ho detto, se tu rimani in Europa sei come mio figlio. Io l'ho trattato come un figlio, per un genio. Ma ti aspettavi una fine così? Sì, perché avevo cacciato via tutti i dottori americani che erano ciarlatani per i soldi. L'Europa ha dei medici che hanno l'etica, non gli danno le medicine contro i soldi. Avendo cacciato via il dottore, avevo dei dottori europei, andava bene. Sapevo che se lui lasciava l'Europa ricadeva nel ricatto, perché lui aveva paura della morte, del dolore, voleva dormire, sonniferi, cambiarsi la faccia. Era un bambino che aveva come giocattolo i soldi, un bambino viziato, senza genitori. Ero il, non dico il padre, ma come se fosse il grande zio, fratello, lo proteggevo di se stesso, come noi facciamo con i nostri figli. Si immagina un figlio suo che a 11 anni fa $1 miliardo, certo, è un problema. Certo, no? Ecco, questo era Michael Jackson, però un genio. Un genio. E fino a quando è durato questo partenariato? Io sono rimasto con lui tra 3 anni, e sono gli anni dove ero lui, io felicissimo. Sì. Vedere 52 concerti nei stadi, ho fatto Milano, ho fatto Wembley, l'ho portato in Giappone, in Corea, in Australia, in Sudafrica con Mandela. Ero come una zanzara che vedeva la luce. Ogni volta vedevo questo ragazzino, poi vivere a Neverland con lui, dove la mattina lui in pigiama, io mi alzavo presto e lui mi faceva vedere un movimento di ballo dicendo cosa ne pensi. Ah, io dico, fantastico. Ma come vuoi che io ti dico qualcosa, sei un genio? No, però dimmi. Ero qua davanti a Michael Jackson, che ne so io di come balla. Ovviamente era forse la più bella storia della mia carriera, con Michael e con i miei figli a Neverland. Era un sogno. Quindi Ben Ammar, secondo te Michael Jackson non c'entrava niente con le accuse di pedofilia? Penso che era una menzogna e che il padre di questo bambino, allora oggi adulto, si è suicidato dopo la morte di Michael per fatto che aveva accusato ingiustamente Michael. Comunque, Principe Al-Walid lo vorrei incontrare. Io chiamo Quincy Jones, che era un amico, il suo produttore. Michael era giunto, solo lo chiamava. E lui ha accettato, gli abbiamo mandato l'aereo, lui è venuto con Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis, che era una ragazza deliziosa, che è stata un'amica vera, non una moglie con Michael, e purtroppo lo ha anche detto. E da là è nato questo bambino che mi vedeva, che mi occupava di lui. Eravamo a Canzo, la riviera francese, e un giorno mi fa, ma tu ti puoi occupare di me? Io non ho capito. Pensavo che lui voleva fare shopping, andare in giro. Chiamo l'avvocato, dice, ma che era il mio avvocato, anche suo, mi ha chiesto di occuparsi di sé, cosa voleva dire? E lui ti vorrebbe come manager, ma io non ho mai fatto il manager. E lì è cominciato. È una storia d'amore. Chiudiamo con una canzone di Michael Jackson. She said like she dances to his needs. She dances till he feels just right until he falls asleep. She dances at the crack of dawn and quick. babe cooks his food. She can't be late, can't take too long. The kids must get to school. Mix 24. Questa è nota come la settimana della moda. Modello numero 4, Giuditta. È un modello scintillante, intimo, malinconico e sincero. Non hai la minima idea dello stile e del senso della moda? Ok, ora Chanel, hai un bisogno disperato di Chanel. Qui i guardaroba sono un disastro. Apri il tuo armadio e scegli quel maglioncino azzurro infeltrito. Quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro. Indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba. Sono finite le sfilate di Milano, le sfilate di moda a Milano, e oltre all'evento Glamour vogliamo capire lo stato di salute del sistema moda, della moda italiana. Ecco, Paola Pollo, prestigiosa firma di moda del Corriere della Sera, i numeri dicono che il fatturato della moda italiana nel 2014 crescerà soprattutto grazie all'export. Ma la moda è ancora italiana? Direi che ancora sarebbe un po' presuntuoso, direi anche. Non solo, non ancora, ma anche, perché di realtà ce ne sono veramente tante adesso, anche belle. La nostra è una gran bella realtà, una fra le prime, ecco, direi. Gli stilisti italiani brillano ancora nella Ville Lumière? Ma direi di sì, ne abbiamo un bel gruppetto e hanno fatto una bella figura, hanno avuto le recensioni anche della stampa straniera molto, molto buone, cosa che invece non è accaduto in Italia per gli stilisti italiani tante volte, e quindi direi di sì. Che Nemo profitta in patria. Esatto, una bella squadra. E appunto gli stessi italiani sostengono che a Parigi riescono a trovare un po' più di serenità e tranquillità. Un clima migliore. Esatto. Ecco, esatto. Ma senti, quanto dura la settimana della moda a Parigi? Una settimana? Magari, no, dura 9 giorni. 9 giorni, mamma mia. 9-10 giorni. Ecco, però la settimana della moda a Milano invece mi sembra che sia durata 4 giorni. Come mai? Quest'anno è stato un incubo. Come mai bisognerebbe chiederlo, ma non so neanche dirti a chi. È un brutto segno però. Sì, bruttissimo, hanno concentrato tutta la moda italiana in direi 4 giorni e mezzo, quindi una media di 12-13 sfilate, che è come dire, sedersi a Cannes e vedere tutti i film di Cannes in 2 giorni. Sì, impossibile da giudicare, quindi fino alla nausea, diciamo. Esatto, impossibile da assaporare, impossibile niente. Boselli, che è il presidente della Camera Nazionale della Moda, ha detto che è chiaro che New York e Londra da anni vogliono indebolire Milano e Parigi, però se a Milano fanno così si indebolisce da sola, è vero? Sì, esatto, perché alla fine dovremmo proteggerci noi da soli, perché loro fanno il loro lavoro e quindi cercano di arraffare sempre più spazi, sempre più tempo di compratori, giornalisti, e si vendono meglio. Ma ci riusciranno quindi a portare via, diciamo, la ciccia a Milano? Ma allora, c'era già stato un attacco qualche anno fa che la Camera della Moda spinse molto bene. A questo giro forse è stata presa la sprovvista, non so cosa è successo, però no, questo giro diciamo non è riuscita a loro, forse il sistema non è riuscito a proteggere la moda. Boselli, sempre lui il presidente della Camera Nazionale della Moda, si dice preoccupato però per l'incertezza geopolitica del quadro generale e di eventuali problemi con la Russia. Tu sai che per esempio il settore agroalimentare c'ha già dei grandi problemi. Sì, sì. Per la moda italiana sarebbe un disastro? È un grosso problema la Russia, adesso anche Hong Kong è un problema grossissimo. Perché sono i grandi compratori. Certo, ha subito una grande battuta d'arresto, molto molto grossa. Ah, una grande frenata? Una grande frenata, sì, più per lo spavento o perché hanno deciso di stare un attimo a guardare su quel che succederà, ma a Hong Kong anche, so che ci sono grossi problemi per contestazioni. C'è una situazione molto di grande tensione, sì. Ma perché Hong Kong è una grande piazza per la moda? Sì, una grande piazza, certo, come tutto il mercato d'Oriente da un bel po' di tempo, anche per l'Italia poi specialmente. Senti Paola, Gucci, Valentino, Pucci, molte altre griffe italiane sono state comprate da gruppi del lusso straniero, si sa. È un bene o un male? Cioè, bisogna stracciarsi le vesti oppure no, fa parte della globalizzazione? Diciamo che se così hanno continuato a vivere, forse meglio, se poi la produzione continua a restare in Italia, comunque la creatività resta italiana, sono tutte Gucci in mano a un italiano, Valentino è in mano a creativi italiani, ecco, l'unica cosa è Tucci è in mano a uno straniero, ma comunque sia il quartiere generale resta a Firenze, l'amministratore delegato, addirittura l'Audomia Pucci è rimasta una rappresentazione di famiglia addirittura. Esatto. Se questo serve a far continuare queste maison, perché no? È un peccato, ma meglio che chiuderle. Ma certamente. Ma c'è una creatività che viene avanti dai giovani stilisti italiani per, come dire, sostituire anche la generazione precedente? C'è? Sì, sì, c'è, ci sono un bel gruppo di giovani, quello di giovani, anche prima, più giovani, alcuni che magari uno non conosce. Sì, sì, sconosciuti, ma magari non, esatto, non giovanissimi. Non so, Caterina Gatta, Francesca Liberatore, ce ne sono, e poi adesso ci sono i nuovi, Puglisi, insomma, qualcosa c'è. Però la creatività non ha età. Se continuassimo ad avere per i prossimi 20 anni creativi anche di 50-60 anni che regalano cose strepitose, ben vengano, così come ben vengano i 20 anni, non importa, la creatività non ha età. Non si misura sull'età. Esatto, Miuccia Prada, che è la stilista che tutto il mondo ci riconosce come essere la maggior creativa del mondo degli ultimi 10 anni, eppure non è una bambina. Ma qualcosa nel sistema moda italiano per si è rotto comunque oppure no? Più che rotto probabilmente non c'è mai stato, cioè fare squadra fra stilisti, è quello che manca, è questo. No, ma perché il legame tra artigianato, creatività e industria, che poi è la filiera che rende operativa la creatività, no? Esatto, è indissolubile secondo me, cioè non possono gli stranieri, come hanno fatto, accusarci di aver perso creatività quando continuiamo a essere il luogo dove tutti vengono a produrre, perché c'è l'artigianalità e quindi non ha senso, certo. C'è creatività, artigianalità e anche industria, c'è tutto. Senti, ma se sbagliamo noi a non difenderla facendo sistema. Ma se il 75% più o meno dei tessuti che si usano nella moda per fare la moda sono italiani e la fiera si fa a Parigi, non c'è una piccola contraddizione lì? Per quello che ti dicevo prima, perché manca, non facciamo sistema? Penso che tutti sarebbero contenti probabilmente di venire sul lago di Como, adesso famoso, certo, per un sacco di motivi, a una fiera della seta. Senti, un'ultima cosa, chi detta le regole della moda oggi? Sono ancora i giornali, le grandi giornaliste come te, oppure chi? Oppure le società che vendono i vestiti di marca online? C'è un punto di eccellenza che dice tu sì, tu no? Detta legge sono ormai, penso, i grandi gruppi come LVMH, come Kering, questi grandi gruppi della moda che sono decidono. Più forti di qualunque critica, diciamo. Ma no, conta la critica, conta l'azienda e conta anche il prodotto, perché la gente non è più stupida, non ha più l'anello al naso, sa scegliere cosa vuole, sa scegliere e quindi non puoi fregarla. Non puoi condizionarli più di tanto. Assolutamente no, il successo di qualcosa è dato al fatto che la cosa piace, indubbiamente. Questa è Madonna, 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Fausto Puglisi, siciliano, ne parlava Paola Polo, è uno stilista emergente, ha iniziato negli Stati Uniti proprio vestendo Madonna. Ecco, ma come hai fatto a vestire Madonna? Madonna è nata con Ariane Phillips, che tra l'altro ha coinvolto anche in un progetto molto bello a Parigi appena la scorsa settimana, ma con la grandissima ostinazione di un terrone quale sono, di un siciliano. Io ho lasciato Messina a meraviglia anni. Sicilia. Sì, assolutamente, Messina, 18 anni, sono andato a New York, facevo il cameriere là e... No, ma Madonna, come ha fatto a vestirla? Ho inviato dei pezzi alla sua stylist, Ariane Phillips. E gli è piaciuta? E le è piaciuto moltissimo, e da lì è nato un bellissimo rapporto. Senta, ma stima. Come si fa a fare il salto dal vestire una celebrity così quasi per caso, diciamo, e avere poi invece un marchio proprio e arrivare alle passerelle? È un salto complicato? Complicatissimo, un fatto complicato, ma è ostinazione continua, è una grande ambizione, ostinazione e amore per il proprio lavoro. Cioè, io amo stare con i miei studi, amo stare con i miei sarti, io amo lavorare. Come tutti i grandi artisti della creazione di moda. Ecco, ma perché lei è partito dall'America? L'America rappresenta il sogno, l'America è l'America, l'America è il sogno, l'America è il più incredibile trash di culture e di sogni, di incubi anche, di bellezza. Ecco, ma è più facile partire dall'America, Puglisi, che non dall'Italia, per sfondare? Ognuno parte da dove vuole. Sì, no, ma lei, essendo siciliano, avendo sfondato in America, viene da chiedersi come mai non partire dall'Italia. Ma guardi, a me è carina questa cosa che era uscita su un Vogue americano in cui dicevano il Frank Sinatra della moda. Frank Sinatra era di origini palermitane, sì. Di origini siciliane. Io sono siciliano e sono un sognatore, sogno sempre molto in grande. E secondo me sembra giusto. Per me è più idoneo per iniziare. E poi mi piace, non amo nulla di tutto ciò che è borghese, mi piace tutto ciò che è crash, tutto ciò che è forte, tutto ciò che ti colpisce allo stomaco. L'America ti colpisce allo stomaco. Senta, Puglisi, ma la grande moda passa ancora per l'Italia oppure no? Assolutamente sì, vive a Milano, vive l'Italia, ma assolutamente passa da Milano. Nulla, cioè, ma passa dall'Italia, passa da Roma, passa dalla provincia italiana, dal primo paesino della Sicilia all'ultimo in provincia di Bolzano. Abbiamo delle realtà straordinarie. In provincia di Cattolica ci sono due aziende incredibili. Senta, ma mi produce, che è la Gilmar, che è straordinaria, dove ci sono dei lavoratori, dei start incredibili, modellisti, ricamatori. L'Italia è ricca di bellezza, di gente straordinaria, di un'umanità che di non talenti, di talenti, grandi talenti. Ma chi è stato il suo maestro? Gianni Versace, assolutamente. Ah, che cosa ha imparato da Versace? Gianni Versace era senza paura, in America si dice fearless, no? Non aveva paura, a me io non ho paura, mi piacciono le sfide, sono curioso. Sono sedotto dalla gente della strada, dai quartieri spagnoli come dalla regina Elisabetta, mi piace tutto. Senta, ma a parte Versace oggi ha uno stilista ideale, a parte se stesso, Puglisi, naturalmente. Ma, secondo me Domenico Dolce e Stefano Gabbana sono gli stilisti che in modo più indipendente sono riusciti ad andare avanti, portando avanti l'italianità in modo anche molto cinematografico, in modo anche molto, certo, molto orgoglioso. E anche molto siciliano. E anche molto siciliano. Sì. L'idea di sfilare anche in Italia e non a Parigi, no? Con l'alta, certo, moda, sono stati i primi a farlo. Esatto. Senta, Puglisi, oltre ad avere la sua linea, l'abbiamo detto, lei è anche direttore creativo della Maison Hungarou. Ecco, sì. Che differenza c'è nel modo di interpretare la moda tra Francia e Italia? Assolutamente. Allora, intanto la moda francese è interpretata dagli italiani, sono tantissimi stilisti italiani, i veri vincitori sono gli italiani, anche a Parigi, intanto, questa è la prima cosa. Secondariamente i bei prodotti francesi sono fatti in Italia, per lo più all'80%, al 90%, dalla pelletteria all'abbigliamento, alle stampe. E, è triste pensare che un posto come Como purtroppo i comaschi debbano andare a vendere i tessuti che producono a Parigi e non fermarsi a Como. Io, certo, sono pro Como, sono per l'Italia e sinceramente la differenza è una: noi italiani siamo i numeri uno, noi italiani siamo i veri sognatori, noi siamo i Marco Polo della moda, ma come della ricerca, come della cultura in genere. Ma dicevo, direttore creativo della Maison Hungarou, è un nome prestigioso, Hungarou. Lei ha qualcosa di Manuel Hungarou? Ma Emanuele Ungaro era di origini pugliesi, sì, quindi estremamente mediterraneo, estremamente meridionale, nato a Aix-en-Provence, quindi nel sud della Francia, e poi a Parigi, con un amore incredibile per l'America e amato tantissimo dagli americani. Ma dal punto di vista artistico, le sue produzioni, i suoi vestiti? Ma certamente, il colore, anche là, non paura. Emanuele Ungaro era uno dei primi a sfidare in modo feroce, sì, e anche il buon gusto, non aveva paura. E poi alla fine, quando sfidi il buon gusto, tutto diventa di buon gusto. Senta, ma ci sono delle scuole per formare le professionalità necessarie al suo lavoro? Allora, per il mio lavoro è un discorso, la strada è la più grande scuola, imparare. Io dico sempre, se sei di Napoli, la fortuna di essere napoletano del sud Italia, la cosa più importante è imparare da un sarto, da un bravo sarto sconosciuto. Quindi andare a bottega, diciamo che la vera scuola è andare a bottega. Uomo, bravissimo, andare a bottega, quella è la cosa migliore, assolutamente a bottega. Le faccio un'ultima domanda e le faccio insieme tantissimi auguri, perché mi piace questa forza e questa creatività. Senta, quanto conta il rapporto con i media per avere successo? non deve diventare un'ossessione, non deve diventare un angoscia, conta quando diventa quando il rapporto è libero. Io con Emilia è libero. Mix 24 di Giovanni Minoli, il faccia a faccia della storia. Giorgio Armani, piacentino di professione stilista, occhi chiari, taglienti, naso corto, capelli bianchi, è il bettega della moda. A vederlo sembra solo un ragazzo un po' cresciuto, muscoloso ai tante, invece è un'impresa. Esporta in tutto il mondo, il suo ritratto è stato sulla copertina di Time, 6.400.000 copie vendute. Prima di lui, nella moda era toccato solo a Dior. Nell'82, 170 miliardi di fatturato. Non ha tic, non fuma, non beve, è composto, ordinato, controllato, un po' pedante, perfezionista. La sua giornata è rigorosa, dalle 8.30 alle 20.30, lavora con mezz'ora di intervallo per la ginnastica e un'ora per mangiare. Dicono che è un sentimentale, insicuro e pessimista, che voleva fare il medico per curare i corpi, che invece adesso veste. 7 anni di gavetta, poi il lancio, l'artista diventa manager, l'artigiano industriale. Il suo verbo è semplicità e comodità. Armani, quando la rivista Time, la rivista più americana più prestigiosa del mondo, lo ha proclamato l'uomo dell'anno, se lo aspettava? Assolutamente no, è stata una grandissima sorpresa. Comunque la copertina, la sua copertina, pare che abbia cambiato la sua vita. Se è vero che da allora il suo rapporto con la stampa è andato in crisi, cos'è capitato? Non è vero tutto quello che sta dicendo lei. Non c'è stato nessun problema con la stampa, quindi? Assolutamente. Time è arrivato all'improvviso, dopo che avevo già preso col mio socio la decisione di non presentare più con le sfilate la mia collezione alla stampa. Perché? Per vari motivi. Il primo è probabilmente questo, anzi, il principale motivo è questo. Che abbiamo piano piano perso di vista la realtà con queste sfilate, la realtà che è quella di realizzare vestiti che sono destinati a delle donne vere, delle donne che si trovano nella strada tutto il giorno e non a delle mannequin. Quindi eravamo anche noi stati presi un po' da questo bailame della moda, da questo baraccone della moda che qualche volta fa perdere di vista la realtà. Ma lei crede che i media hanno una funzione nei confronti della mediazione dell'informazione rispetto all'opinione pubblica o no? Naturalmente. Io non escludo affatto l'utilità della stampa, l'utilità di tutto quello che è il mezzo per far vedere quello che si crea in uno studio, in un atelier, piuttosto che nelle fabbriche soprattutto. Armani, non ha mai pensato, mi scusi, che il suo lavoro le ha un po' montato la testa? Assolutamente. E non lo ha mai spaventato il successo? Mi ha terrorizzato il successo. E ha avuto paura di perderlo? Vede, il successo quando si prende con le mani, bisogna avere il coraggio di dire finisco con il mio lavoro e chiudo. Ecco. Invece non è così, spesso non è così. Il tanto successo lo ha più rassicurato oppure lo ha reso ancora più incerto? Il tanto successo mi ha rassicurato, devo dire, nel senso che quello che ho fatto è stato apprezzato. Ecco, le chiedo questo perché Valentino ha detto che avere successo è molto difficile, ma è molto più difficile mantenerlo e che per mantenerlo bisogna non avere dei dubbi. Lei ce li ha dei dubbi? Dubbi atroci dalla mattina alla sera, perché credo che il nostro lavoro è un lavoro creativo, quindi come ogni lavoro creativo ha delle sorprese, cioè non è detto che quello che hai fatto ieri possa funzionare domani. Ecco, ma assolutamente. Allora come giudica i non dubbi di Valentino? Ma Valentino ha un atteggiamento molto strano, molto suo nei confronti della moda, e dimostra una sicurezza particolare, devo dire, e lo apprezzo molto per questo. Valentino è una persona che ha scelto una strada e va avanti per quella strada, pensando sempre probabilmente che le donne sono degli esseri eteri, che non fanno la vita di oggi, probabilmente. Sono donne particolari quelle di Valentino. Ecco, ma secondo lei chi è il più grande stilista di tutti i tempi? Beh, non c'è il più grande stilista di tutti i tempi, perché i tempi cambiano. E di oggi, allora? E di oggi? Direi che ciascuno di noi è bravo nel proprio settore. Ma mi dica uno. Si sbilanci. Un bravo stilista, Giorgio Armani per il Prêt-à-Porter. Ma c'è qualcuno che oggi ha successo e che lei non riesce proprio a spiegarsi perché? Moltissimi, moltissimi, perché adesso molto spesso il successo è dato anche da altri fattori che escludono la capacità, la creatività. Ecco chi, per esempio? No, nomi non ne facciamo. Dico, mi sembra abbastanza pesante, molti. Qualche volta, in mancanza di idee, non le viene voglia di saltare una stagione e non proporre nulla di nuovo? Beh, è un'operazione che ho fatto qualche volta, cioè limitando la mia creatività, decidendo che per quella stagione volevo un po' rivedere le mie posizioni per riproporre una moda più pensata, meno creativa. Ecco, ma secondo lei quante idee veramente nuove si possono avere nella carriera di un creatore? Ma direi che non è tanto un fatto di idee, quanto è forse capire, di rapporto con la realtà. No, certamente, capire quando è il momento di cambiare, ad esempio, il proprio indirizzo, quando è il momento di cambiare la propria politica. Armani, lei è accusato di firmare, forse per smania di denaro, così dicono i suoi nemici, un po' troppe collezioni. Non l'ha mai pensato anche lei? Devo dire, le collezioni che io disegno sono molte, ma sono praticamente collezioni concatenate, cioè io disegno la pelle per un produttore che contemporaneamente fa la mia pelle, cioè fa la mia collezione di pelle, e così per molti altri settori. Mi sono trovato un po' coinvolto in questa cosa. Quindi devo dire che non è per una volontà di denaro, no. Ecco, ma non me lo godo il mio denaro. Però si dice che lei è ricchissimo. Come investe il suo denaro? Beh, se io dicessi che non so esattamente che cosa posseggo, mi crede. Quindi tanto. Potrebbe anche essere pochissimo. Difficile. Senta, lei personalmente preferisce vestire le donne o gli uomini? Personalmente preferisco vestire gli uomini. Perché? Perché mi sembrano molto più saggi, molto meno strane nelle loro pretese, molto più positivi. E quindi si sente più forte nella sua linea di produzione per gli uomini che per le donne? No, non è questione di forte. Semmai sono più stimolato a fare una collezione femminile, perché le proposte possono essere tante, quindi c'è più competitività. Nell'uomo, credo che l'uomo che faccio io forse è più centrato di quello che fa qualcun altro. Ecco, ma c'è qualche parte del corpo femminile, lei parla, sì, delle sue collezioni femminili, che la infastidisce, che cerca un po' di cancellare nelle sue creazioni? Beh, direi una cosa molto pesante quella che sta dicendo. No, cioè, una domanda. No, io non cancellerei niente, direi che l'esuberanza mi dà fastidio, l'esagerazione anche in un corpo femminile. No, e negli uomini, per esempio, cioè per capire. Beh, negli uomini una certa forma di esibizione del proprio fisico eccessiva mi dà fastidio. Lei pensa che comprare un suo vestito vuol dire spendere bene i soldi solo perché c'è scritto Armani? No, questo lo trovo idiota completamente. Io credo di dare un prodotto che, a parte l'etichetta che porta, ha qualcosa di implicito, di valido. Ecco, un giorno lei ha detto: sarò a Pitti Bimbo con la linea per l'infanzia per vedere se contano di più nelle scelte le mamme o i bambini. L'ha fatta questa verifica? Ma io ho fatto queste collezioni da bambino, devo dire che hanno avuto un grande successo, tenendo conto soprattutto di una cosa, del gusto del bambino e non del gusto della mamma. Ecco, ma lei non pensa che un bambino che sceglie un modello Armani sia un bambino con un futuro pieno di problemi? Il futuro è così, è talmente difficile per organizzare il futuro in questo momento, che non vedo il problema. Armani, lei ha detto: io faccio una moda progressista. Sì. Che cosa significa? Cioè, io penso che la moda va fatta per il momento in cui si vive, e credo che forse una delle qualità che io ho è di così capire questo momento e capire quello che gli uomini e le donne vogliono portare in questo momento. Ma lei per chi vota? È una cosa molto privata, non credo che debba rispondere. Mi dica almeno in che modo le sue idee politiche influenzano il suo modo di fare moda, questo me lo può dire? Beh, vede, io non ho idee politiche tanto precise. Il suo rapporto con il reale, diciamo. Direi che mi rendo conto dei mille problemi che in questo momento così infliggono il mondo. Quindi è per quello, per rilasciarmi quello. Mi riferisco al progressista. Sì, esatto. Al discorso di prima, di Valentino. Cioè, io mi rendo conto che è inutile fare una moda che serva a 10 donne o a 200 donne in tutto il mondo, quando tutte le altre vogliono vestirsi in un'altra maniera perché hanno degli altri problemi da affrontare. Io credo, in questo senso, mi ritengo uno stilista moderno, molto più disincantato di qualche mio collega. Ecco, ma secondo lei chi è la donna più elegante che ha vestito? Quella che le ha dato più soddisfazione? Forse la conosciuta che ha comprato un mio capo in Sant'Andrea, o piuttosto che a New York in Quinta Strada. Quali sono, secondo lei, gli elementi del costume, della vita sociale, che influenzano di più la moda? La sua moda, naturalmente. Ma direi che sono tanti fattori messi insieme. Le ripeto, io vedo molto come si muove la gente. Anche la donna ricca, cosiddetta ricca attuale, si muove in maniera totalmente diversa da quello che era 20 o 30 anni fa. Cioè, entra in un grande magazzino, compra anche la t-shirt in un negozio, arrivo a dire, periferico. Ecco, ma allora, mi scusi, è più la strada che copia dagli stilisti o gli stilisti che copiano dalla strada? Questo devo dire che è veramente un'osmosi perfetta, cioè a volte sono gli stilisti che impongono determinate cose, ma inspiegabilmente è come se si sentisse questa esigenza da parte del pubblico. Ecco, qualche volta addirittura il contrario. Secondo lei, scusi, qual è stato il secolo più elegante? Il secolo più elegante forse, ma io ricordo un certo periodo che va dal 25 al 30, ecco, forse, che c'è ricordare questo. Senta, Armani, per tanto tempo gli stilisti, lo sappiamo, hanno agito un po' come delle prime donne autonoma e inavvicinabile. Poi è arrivato, nel caso suo, anche un giovane amministratore delegato di un grande gruppo finanziario tessile, Marco Rivetti, sì, che ha sorpreso un po' tutti tentando di fondere l'alta moda con la produzione industriale. L'affare, chi l'ha fatto? Ma prima di tutto preciserei che non si tratta di alta moda, ma di prêt-à-porter. Sì, è vabbè, sempre non importa, è l'uso degli stilisti, diciamo, di grande nome. Ma questo è un grosso sbaglio che si fa, comunque direi che a parte questa considerazione... Ecco, ma chi ha fatto l'affare? Direi è stato reciproco l'affare, assolutamente. Io ho trovato personalmente nell'imprenditore Marco Rivetti una persona molto aperta, molto così, molto disponibile a mettere a disposizione le sue organizzazioni per realizzare in fondo quello che sono le mie idee. Armani, un'ultima domanda. Un giorno lei ha detto: credo in Dio quando ho paura e sento bisogno. Adesso ci crede? In questo momento? Nel senso che mi dia una mano, vuol dire. Non lo so, io rimango dell'opinione: quando ho bisogno credo in Dio.